24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione di 24 ore in Europa, la missione internazionale in Afghanistan, le sentenze di due paesi in materia di coppie gay e la Flex Security europea. Partiamo dunque da Kabul. La data di rientro dei 130.000 soldati di mezzo mondo è stata al centro ieri di colloqui e precisazioni tra un continente e l'altro. Sentiamo cosa è successo da Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. La notizia battuta stamane dalle agenzie era sembrata clamorosa. Il presidente afghano Hamid Karzai aveva chiesto al capo del Pentagono Leo Panetta di anticipare di un anno il ritiro dall'Afghanistan, dal 2014 al 2013. Poi gli stessi americani hanno smentito una dichiarazione che veniva per la verità non dal presidente ma dal governo di Kabul. Sull'ondata emotiva della strage di Kandahar e degli altri pesanti incidenti di cui sono state protagoniste le truppe americane si era creata una sorta di giallo che però ha una sua spiegazione. La verità è che Karzai sta alzando la posta nella trattativa con Washington sulla partnership strategica, sulla permanenza delle basi americane e sul raggio d'azione che avranno le truppe straniere nel paese. Gli americani vorrebbero firmare l'accordo prima del vertice NATO del 20 maggio a Chicago. Gli afghani pretendono di negoziare a parte la questione delle basi militari. Karzai doveva comunque dare un segnale di reazione per non apparire un fantoccio in mano alle truppe straniere che gli hanno garantito la permanenza al potere, e così sono arrivate queste dichiarazioni destinate a placare l'ira degli afghani. Una cosa però è evidente: se gli americani e la NATO se ne andassero prima del 2014, i talebani potranno dire di averli costretti al ritiro, confermando che l'Afghanistan è da sempre il cimitero degli imperi. E facevano parte di un reggimento impegnato anche in Afghanistan i tre militari francesi uccisi ieri in un agguato a Mantouane, nel sud-ovest del paese. Siamo alla riforma del mercato del lavoro. Il presidente del Consiglio italiano Mario Monti è ottimista sul raggiungimento di un accordo e in un'audizione alla Camera ha assicurato che sul fronte liberalizzazioni l'attività normativa non può dirsi mai finita. E dall'Italia noi abbiamo allargato lo sguardo agli altri paesi dell'Unione Europea. Esiste una via italiana alla flex security per la riforma del nostro mercato del lavoro? Radio 24 ha cercato di rispondere a questa domanda andando a indagare nella patria del modello di flessisicurezza, la Danimarca, per una serie di reportage che potrete ascoltare a partire dal 24 marzo. Tutte le fonti e le parti sociali che abbiamo contattato a Copenaghen concordano che il modello danese non può essere semplicemente copiato nel nostro mercato del lavoro. This model is unique Danish. Come spiega a Radio 24 Bo Smith, sottosegretario del governo, il modello di flex security è danese, si basa su oltre 100 anni di relazioni industriali, non è realistico pensare di poterlo trasportare in alcun altro paese. I pilastri sono tre. Il primo riguarda la totale flessibilità nel sistema di assunzione e licenziamenti, con una protezione dei lavoratori pari a zero. Tra imprenditori e sindacati esiste un alto grado di fiducia, al punto che il governo non prende parte ai negoziati sui contratti dal 98, qualcosa di completamente diverso dall'Italia. Il secondo pilastro riguarda il modello di finanziamento della sicurezza sociale. In Danimarca non si protegge il posto di lavoro, ma il lavoratore. Se viene licenziato riceve un sussidio pari fino al 90% dello stipendio fino a 2 anni. Il sistema è costosissimo per le casse pubbliche. I danesi pagano in media il 52% in tasse. E perché questo pilastro funzioni, occorre che i disoccupati rientrino presto nel mercato dell'impiego. I job center svolgono un ruolo cruciale nel rimettere in circolo la forza lavoro. Qualcosa di molto diverso dall'Italia, dove solo il 3% dei disoccupati cerca aiuto in un centro pubblico. Infine, due fattori culturali cruciali: la bassa gerarchizzazione sul luogo di lavoro. Il capo è un primus inter pares, non ha necessariamente sempre ragione, e la forbice salariale bassa tra manager e lavoratori, il che attutisce le tensioni sociali. Un altro mondo rispetto all'Italia. Bo Smith, per cominciare, suggerisce: promuovete un mercato dell'impiego più flessibile, con una distinzione meno marcata tra insider e outsider. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore, Copenaghen. Questa invece la giornata in borsa. Chiusura in lieve rialzo per le borse europee, confortate dai dati macro USA dopo le indicazioni a luci e ombre fornite in mattinata dalla Banca Centrale Europea sulle prospettive della congiuntura del vecchio continente. Milano ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,85% grazie alla performance di alcune blue chips. La volatilità però ha regnato sovrana anche a causa dell'approssimarsi delle scadenze tecniche. A Piazza Affari sono state gettonate le Intesa San Paolo più 4% nel giorno della pubblicazione dei conti del 2011 e della conference call del neo amministratore delegato Enrico Cucchiani. Si sono infiammate le Risparmio più 9%, visto che il numero uno dell'istituto ha detto: non amiamo le azioni Risparmio. Sono inoltre andate bene le autogrill, più 4,3%, beneficiando delle voci che l'azienda possa rilevare a DR Retail, la società che controlla le attività commerciali degli aeroporti romani. In rialzo anche ST, più 5%, su ipotesi di cessione della joint venture ST Ericsson. Fiat ha guadagnato lo 0,4% a dispetto delle immatricolazioni europee che a febbraio sono calate del 16,5%, facendo peggio del mercato. Eleonora Micheli da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Un giovane marocchino arrestato a Brescia, una donna fermata a Londra dalla Metropolitan Police, un'operazione internazionale contro il terrorismo. Aveva annotato sul suo computer ogni dettaglio, misure di sicurezza adottate, personale di polizia impiegato, blocchi eventuali e possibili vie di accesso. Il giovane marocchino arrestato a Brescia e che viveva in provincia dall'età di 6 anni stava progettando un attentato alla sinagoga di Milano nei minimi dettagli, con sopralluoghi virtuali. E quanto hanno accertato nel corso delle indagini gli uomini della Digos dell'antiterrorismo, dopo aver intercettato anche un messaggio del giovane in cui parlava di una missione jihad. In possesso di notevoli conoscenze informatiche, l'uomo aveva anche creato dei gruppi Facebook segreti. Claudio Galzerano è dirigente UCIGOS. L'operazione non a caso è stata chiamata Firewall, proprio di indicare tutti gli ostacoli che lui metteva per accedere a questi gruppi. Cioè c'era una selezione vera e propria degli aspiranti alla partecipazione di questi gruppi segreti, e poi al loro interno veniva condiviso materiale su come assemblare esplosivi, materiale jihadista e via discorrendo. E ora si cercano complici all'estero. Contestualmente all'operazione bresciana, a Londra è stata arrestata una donna in contatto telefonico e via internet con il giovane fermato oggi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora di due diverse sentenze emesse a Londra e a Roma che riguardano la legislazione sui gay. In Italia la Cassazione, accogliendo il ricorso di due uomini che si erano sposati all'Aia, ha stabilito che le coppie omosessuali devono avere trattamento omogeneo a quelle etero. Eppur si muove. Seppure l'Italia sia tradizionalmente in una situazione di stagnazione sui diritti delle persone omosessuali rispetto a gran parte dei paesi europei e anche rispetto a buona parte degli Stati Uniti, da un po' di tempo c'è un certo sommovimento. Il dibattito sull'argomento ultimamente è piuttosto vivace, sino alla sentenza fresca della Cassazione depositata in queste ore, che dice le coppie omosessuali, se con l'attuale legislazione non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, tuttavia hanno il diritto alla vita familiare e a vivere liberamente una condizione di coppia con la possibilità, in presenza di specifiche situazioni, di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. La sentenza arriva in risposta al ricorso in Cassazione di una coppia di uomini italiani sposatisi all'Aia nel 2002 che, avendo chiesto trascrizione del certificato di nozze come atto pubblico al comune di Latina dove sono residenti, hanno ricevuto un rifiuto. La decisione della Suprema Corte, pur rigettando comunque il ricorso della coppia, rappresenta, secondo le associazioni gay, ma anche per diversi politici di centrosinistra, dell'Italia dei Valori e del FLI, una svolta storica, che lancia almeno un ponte verso la risoluzione approvata in questi giorni dal Parlamento europeo, secondo la quale Strasburgo si rammarica dell'adozione da parte di alcuni stati di definizioni restrittive di famiglia, con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli. Non è un atto vincolante, ma sicuramente è destinato a prospettare orizzonti più ampi. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Londra invece fa discutere la sentenza della Corte d'Appello che riconosce i diritti di un padre naturale, un uomo gay che aveva donato il seme, rispetto alla vita del figlio affidato a due donne. In sostanza viene sancita la possibilità di un bimbo di avere tre genitori egualmente coinvolti nella sua educazione. Andiamo ora in Belgio, dove arriveranno oggi i corpi delle 28 vittime, quasi tutte ragazzini, del grave incidente stradale successo in Svizzera. E tra le varie voci sulle possibili cause del disastro, il fatto che l'autista stesse armeggiando con un DVD. Verranno rimpatriate probabilmente con un aereo militare le salme delle vittime del terribile incidente stradale che ha ucciso 28 persone in Svizzera, per la maggior parte di nazionalità belga. Il paese è sotto shock e continua a interrogarsi sulle cause di un incidente che rimane per molti versi misterioso. Tre le ipotesi: un malore dell'autista, un errore alla guida o un danno tecnico. Il governo di Elio Di Rupo ha annunciato una prossima giornata di lutto nazionale. Ieri il primo ministro si è recato in Svizzera per depositare una corona di fiori sul luogo dell'incidente. Non ha voluto che la stampa fosse presente. testimone della cerimonia solo un giornalista dell'agenzia di stampa nazionale Belga. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. In Europa sono di nuovo diminuite le immatricolazioni, meno 9,2% su base annua nel mese di febbraio, stando a quanto riferisce la CEA. Svolta commerciale per IKEA. Entro quest'anno 5.400 articoli saranno acquistabili online. Per il colosso svedese si tratta di un cambiamento dettato dall'impegno ambientale, come ci spiega Valerio Di Bussolo, responsabile comunicazione. L'anno scorso abbiamo completato l'installazione di 150.000 pannelli fotovoltaici sui tetti e su alcuni parcheggi dei nostri punti vendita. Poi ci sono gli impegni invece su altri settori, come per esempio quello di individuare sempre migliori standard di fornitura del legname, e stiamo lavorando molto anche sul concetto del non spreco, per cui siamo a 75% di differenziazione dei rifiuti e il recupero e il riciclo oramai arriva al 92%. L'impegno ambientale significa anche permettere alla gente di non venire per forza nei punti vendita usando l'automobile, per cui stiamo lavorando da una parte per migliorare l'accessibilità con i mezzi pubblici e dall'altra invece abbiamo deciso definitivamente di partire entro fine anno con l'acquisto online. Permetterà a tanta gente di evitare anche di spendere il costo della benzina, che è diventata molto cara, e anche di inquinare di meno. Infine, la storia di un grande campione di calcio e della sua battaglia contro un tumore. Eric Abidal, il francese che gioca nel Barcellona, si dovrà sottoporre infatti a un trapianto di fegato, come scrive la nota della società. La storia di Abidal ha già emozionato tutti per essere tornato in campo 47 giorni dopo il primo intervento. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.